Avete visto anche voi che da un paio di settimane è in edicola in libreria una nuova collana di tascabili economici. Non sono prodotti sgradevoli, eh? La veste grafica è piuttosto tradizionale ma è sobria nel complesso accattivante. Il prezzo inchiodato sulle 6.500 lire è senz'altro conveniente. I titoli sono titoli di sicuro successo, come a dire che sono tutte opere e autori che il mercato ha già ampiamente premiato. Nel gruppo di partenza di fatto ci sono Il nome della rosa di Eco, Congo di Crichton, Inshallah della Fallaci, che Dio la perdoni, e un titolo di quell'inesauribile narratore di avventure per adulti che è Wilbur Smith, che forse è un po' meno noto, ma è tra quelli che vendono parecchio anche lui. L'iniziativa è frutto di collaborazione di un gruppo di case editrici medio-grandi e nasce in evidente contrapposizione con i miti della Mondadori, no? Che salvo per una copertina un po' meno sobria, un po' più sensibile al modello dei paperback americani con quei loro titoloni in rilievo a lettere d'oro e gli strilli pubblicitari esagerati, però in fondo è retta dalla stessa filosofia. Per 6.900 lire ti offrono anche loro dei libri di acclarato successo. Questo mese hanno mandato in edicola il super bestseller della Tamaro, uno Stephen King che basta il nome, la cronaca di una morte annunciata di García Márquez, che non è colpa sua se non riesce a riscrivere 100 anni di solitudine, ma sull'onda di quel grande libro riesce a viaggiare ancora, e un vecchio successo di Patricia Cornwell. Se per caso non sapete chi è Patricia Cornwell, state tranquilli, lo saprete prestissimo. La vecchia ragazza è abbastanza famosa per i suoi gialli obitoriali in senso proprio, la protagonista fa di mestiere l'anatomopatologa, e adesso al suo paese è stata coinvolta in un bel processone scandaloso perché uno sciagurato ha cercato di uccidere la moglie e poi ha presentato come giustificazione il fatto che la mancata vittima aveva un rapporto, una relazione con la scrittrice, e tutto questo non potrà che migliorarne il successo, se non letterario almeno editoriale. Ora, c'è sempre da rallegrarsi quando appaiono delle nuove iniziative librarie. In Italia, stando agli ultimi dati, operano 3.168 case editrici che lo scorso anno hanno presentato la bellezza di 49.080 tra novitarie edizioni e ristampe, 43.302 se si escludono i testi scolastici, portando il totale circolante a 308.661 titoli. Ma il mercato continua a essere un po' nei guai. Il fatturato totale, comprendendo i prodotti paralibravi, non supera i 4.212 miliardi, che sembra tanto, ma in sostanza vuol dire che buona parte di quei 308.661 titoli non li compra nessuno. E visto che nelle librerie, per un motivo o per l'altro, le masse si ostinano a non mettere piede, portare il libro in edicola o in altri punti di vendita ben frequentati può essere una strategia ragionevole. Può, non è detto. Le nuove collane sono evidentemente gli eredi diretti delle collane tascabili da edicola che negli anni 60, a partire dagli Oscar Mondadori, hanno rivoluzionato il mercato dei libri e le abitudini di lettura dei nostri connazionali. Però ci sono delle differenze. Io mi ricordo quando apparvero gli Oscar nell'aprile del 65, costavano 350 lire, erano volumetti dalla copertina un po' frivola rispetto agli standard allora in uso, ma ben stampati, su ottima carta, solidamente cuciti, nel complesso erano destinati a durare, tanto è vero che ce ne sono ancora parecchi nella mia biblioteca, come suppongo nella vostra. E anche i titoli in un certo senso erano destinati a durare. Il primo ad apparire in assoluto fu Addio alle armi di Hemingway, forse non è precisamente un classico, ma fu seguito in rapida successione dalla nausea di Sartre, dalle anime morte di Gogo, dall'orgoglio e pregiudizio della Austin, da Una vita di Maupassant e via andare. La seconda collana ad apparire furono i David dell'editore Dall'Olio, debuttarono con La montagna incantata di Thomas Mann, due volumetti a 350 lire l'uno, a cui seguivano Il giovane Torres di Musil e I Dubliners di Joyce. E neanche un mese dopo la Sansoni cominciò a inondare le edicole di una serie di capolavori che partivano con Delitto e Castigo, seguivano con Il rosso e il nero e allineavano via via Tolstoi, Zola, Defoe, Hugo, James, Balzac e Proust. Una buffata di classici quasi esagerata. Ecco, oggi può darsi benissimo che le 6-7 mila lire del prezzo delle nuove collane corrispondano alle 350 di 32 anni fa. Io non conosco i dati dell'inflazione. ma è certo che sono titoli diversi. E guardate che non faccio questione di generi letterari e neanche di qualità letteraria. E voi sapete che Patricia Conwell, a parte io adoro i gialli e apprezzo enormemente la narrativa di genere, non leggo Stephen King solo perché ho paura del buio, ma ne riconosco il valore, non mi lascio mai sfuggire un Crichton o uno Smith che sia uno, e riterrei altamente auspicabile che tutta la narrativa contemporanea si allineasse sul loro modello. Nel promuovere la narrativa di consumo non vedo proprio niente di male. Ma ciò non toglie che una politica editoriale che al pubblico delle edicole, ai nuovi lettori, a quelli che non sono abituati a mettere piede in libreria, offre soltanto narrativa di consumo e per di più solo titoli che abbiano già venduto almeno 300.000 copie, da un pochino da pensare. Significa che i nuovi lettori o presunti tali sono espropriati dalla possibilità di scelta. Sono considerati un pubblico residuale destinato a seguire le orme di quello vero, a utilizzare dei prodotti che in un certo senso sono già stati utilizzati e che gli vengono offerti perché sennò bisognerebbe buttarli. Un mercato vero dovrebbe offrire a un pubblico le possibilità di scelta, compreso quella di optare tra i classici e gli ultimi successi. Ma i classici da tempo sono di nuovo fuori portata. La maggior parte delle collane tascabili è scomparsa. Quelle superstiti sono tutte rigorosamente di libreria. Quell'addio alle armi degli Oscar è ancora in catalogo con una copertina nuova, ma costa 14.000 lire, che rispetto agli attuali prezzi di edicola è il doppio esatto. E il mondo dei lettori, che 30 anni fa sembrava ancora possibile considerare in modo unitario, adesso è definitivamente diviso in due strati. E chi sta a livello superiore potrà scegliere a seconda dei gusti, delle tendenze, dell'educazione, delle curiosità, tra Proust e l'ultimo Stephen King, tra Hemingway e Crichton, tra Dostoevsky e Latamaro, tutte scelte perfettamente lecite, salvo forse l'ultima. I poveri caffoni del piano basso saranno destinati a leggere soltanto i successi dell'anno scorso. D'accordo. Ciascuno fa il suo mestiere e non è il compito delle case editrici promuovere la cultura di massa alle buone letture. Ma che le case editrici diano una così valida spinta alla tendenza verso l'analfabetismo di massa sembra perlomeno controproducente.